Si tratta di una proposta che è all'interno di un pacchetto di ordini del giorno che presenteremo allegati al bilancio di quest'anno, il cui tema prevalente, l'ho chiamato oggi in commissione pacchetto lavoro perché sono una serie di ordini del giorno tra loro connessi che hanno a che fare con la qualità del lavoro in città. L'idea di fondo è questa: una città, un comune, in termini di stretto diritto, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, non ha alcuna competenza in materia di disciplina dei rapporti di lavoro. Eppure è assolutamente falso, è una resa a nostro giudizio inaccettabile, ritenere che questa mancanza di competenza non possa consentire di utilizzare una serie di strumenti e prerogative che ogni comune ha per interferire in modo positivo con la disciplina dei rapporti di lavoro. Un esempio tra i tanti è la possibilità di consentire che i DEOR siano allargati o defiscalizzati a quei pubblici esercenti che assicurano standard qualitativi più elevati rispetto a quanto richiesto dalla legge, ad esempio impegnandosi a concludere alcuni tipi di contratti e non altri. Un esempio: rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi, invece che contratti di collaborazione occasionale o contratti brevi o brevissimi. O ancora l'utilizzo del part-time verticale per fare lavorare quando ci sono picchi di attività, come nel weekend, invece di fare ricorso al lavoro a chiamata. Ma ripeto, si tratta solo di esempi. L'idea è che al tempo stesso questa scommessa su una città del lavoro di qualità possa essere, per gli esercenti che posano questa via incentivata dal comune, anche un elemento di vantaggio competitivo. Ma questo implica la riconoscibilità del carattere virtuoso della strategia imprenditoriale dell'esercente. E da questo punto di vista l'idea è quella di costruire un marchio di qualità che il comune riconosce sulla base di indicatori di sostenibilità sociale, ma per vero anche ambientale, perché la proposta sarà confezionata in questo modo, perché a nostro giudizio sarebbe interessante che la città del cibo, che la città del turismo, che la città della cultura fosse anche e sempre città del lavoro, rendendo visibile attraverso un marchio ciò che normalmente sta dietro il ciclo produttivo per la fornitura di un servizio, per un servizio di ristorazione, per un servizio turistico, per un servizio o un'attività culturale, ossia la qualità del lavoro e le esternalità negative che il ciclo può produrre in termini di rifiuti, in termini di uso della plastica, uso della carta, dispendio energetico e quant'altro. Come è stata accolta questa proposta dalla Giunta? Formalmente la Giunta si è detta molto favorevole a percorrere un itinerario di questo tipo, tuttavia diciamo anche per l'anno che abbiamo alle spalle, visto che io avevo abbozzato questa proposta anche in occasione dello scorso bilancio, il lavoro che avevamo auspicato quest'anno non è stato svolto. È evidente che per produrre un effetto di questo tipo è necessario che si convochi una commissione piuttosto articolata, un gruppo di lavoro che costruisca gli indicatori per riconoscere un marchio di sostenibilità sociale e ambientale. Lo rifaremo quest'anno guardando non soltanto all'anno a venire, ma con ogni evidenza alla prossima consiliatura, perché ci pare che questa possa essere una delle scommesse della Bologna dei prossimi 10 anni. Quegli esercizi commerciali che rispettano questi parametri, oltre ad avere il marchio, quindi come dire potersi far lustro di un marchio, una certificazione di questo tipo, avrebbero poi anche degli sconti economici, cose di questo tipo? Allora, questo è assolutamente essenziale. Io credo che una strategia del genere possa funzionare soltanto nella misura in cui si riesca a rispondere alle esigenze che i pubblici esercenti manifestano. E quindi è evidente la necessità di un lavoro di ascolto molto attento, e ritengo che i vantaggi possano essere moltissimi, perché da un lato c'è l'esempio che ho fatto rispetto agli spazi esterni, ma tenete presente che, come noto, esistono altre competenze comunali che possono interessare moltissimo i pubblici esercenti, per esempio il regolamento orari. Io non trovo affatto peregrino o capestro che chi assicura degli standard di qualità particolari sul terreno della sostenibilità sociale e ambientale possa avere delle deroghe rispetto ai regolamenti orari. Non escludo affatto che possano essere conclusi dei patti di collaborazione dove i vantaggi possono essere diretti e anche direttamente economici. prodotti, ampliando la fruibilità, favorendo la riconoscibilità. Il Comune di Bologna è il comune che ha stipulato primo in Italia una carta dei diritti dei lavoratori digitali calibrata innanzitutto sull'esigenza dei rider. Si è molto discusso di quali e quante cose il Comune potesse fare per incentivare le piattaforme a sottoscrivere la carta. Il fatto che i pubblici esercizi che si rendono disponibili a fruire dei servizi assicurati dalle piattaforme firmatarie della carta potrebbero essere molto favoriti dal fatto che per quegli esercizi, per esempio in questa aspra stagione di pandemia, è assicurata una consegna in sicurezza perché ci sono i tamponi gratuiti per quei rider, cosa che invece non avviene per i pubblici esercenti che si servono da piattaforme non firmatarie della carta, che regolano i rapporti di lavoro formalmente autonomo con meno benefici, meno diritti e meno tutele per i lavoratori. Cioè di leve a usare intelligenza e fantasia possono essercene una infinità. A noi piacerebbe molto che il Comune, le parti sociali, i pubblici esercenti e chi ha delle competenze da spendere in questo campo si mettesse al lavoro per regalare alla città un aspetto qualitativo che all'oggi nessuna grande metropoli ha, ma che io penso sia uno degli ambiti regolativi del futuro. Credo che anche dal punto di vista degli studi e delle ricerche si stiano facendo passi da gigante. Io ho partecipato solo 2 settimane fa, peraltro con l'assessore Lombardo, ad un convegno organizzato dall'Università di Milano sul lavoro delle città. Sto partecipando a una ricerca PRIN sul lavoro delle città. Credo che questa sia una sfida del futuro e con ogni evidenza il fatto che Bologna si candidi ad essere uno dei primi luoghi di sperimentazione di questa scommessa mi parrebbe un elemento di forte avanzamento a cui Coalizione Civica non ha nessuna intenzione di rinunciare.